la trasmissione dalle 2 alle 3 e mezza e all'inizio parlavate più o meno per 44 minuti, ora siete scesi a 34 minuti, il resto è pubblicità, interruzioni varie, queste storie qua. Volevo solo farvi questo piccolo conto, che parlate sempre di meno, a noi ci interesserebbe che voi parlaste un po' di più. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Occhio Alessandro, poi Quadrado, è il gol del 2-1 al 94esimo, come un anno fa, da Pirlo a Quadrado. Numero ancora per Alessandro, buona l'accelerazione, buona di cross, Dybala, rete, rete, che gol Dybala, Juve in vantaggio, bellissima azione. Dybala, stop a seguire Dybala, Tatarusianu, e poi 2-1 Juve, Mandžukić, Mandžukić, 2-1 Juve, sulla corta respinta di Tatarusianu. A sinistra c'è Pogba, viaggio veloce Pogba, accompagnato da Khedira, Pogba la mette in mezzo, Dybala, parte il tiro, rete, Dybala, la Juventus è in vantaggio. Centrale Zaza, movimento di Zaza, su Koulibaly, poi il sinistro, Simone, Zaza, 1-0 per la Juve. Come avrete capito, rapido riassunto di alcuni dei gol della Juventus che hanno portato la signora a stampare questo nuovo record, 5 gol per 15 vittorie, a titolo esemplificativo naturalmente, da meno 11 a più 1 in 105 giorni, questa è la Juventus. La classifica si è mossa come? Per tutti, davanti come sappiamo, respingendo il Napoli e l'Inter, di cui poi parleremo a lungo, tra un uragano di polemiche arbitrali, un pessimo arbitraggio di Mazzoleni, ma un Inter che continua a correre, a camminare sul filo dei nervi e di un equilibrio che non arriva. Però si è mossa anche dietro, ragazzi, Frosinone che spariglia tutto e adesso vince ad Empoli, adesso mette i brividi alle genovesi e al Palermo, forse tutte queste avevano sbagliato i conti. Palermo, a proposito, Iachini richiamato, perso il conto di quelli che sono passati attraverso la porta girevole che sta montata davanti alla panchina del Palermo. Comunque torna Iachini. Siamo alla vigilia di Coppa e qualcos'altro si potrebbe sparigliare. Giorgio De Luca è il nostro autore, Gianmarco Ferronati in regia, Federico Bini in redazione. Ciao Pierluigi Pardo. Come va? Bene, bene, bene. Tu? Bene, bene. Tutto a posto. Mantengo il mio pensiero. Il Napoli che ha chiesto e ottenuto l'affetto dei suoi tifosi, 2-3 mila ricevono nella notte fonda a capo di chino eccetera, e insomma poteva magari giocare una partita più coraggiosa a Torino, sfruttando quei 2 punti di vantaggio, sfruttando i cerotti della signora, sfruttando il più forte attacco del campionato che l'altra sera onestamente non si è visto. So che sei d'accordo fino a un certo punto. No, io sono d'accordo fino a un certo punto, perché questo discorso è un discorso che sottintende il fatto che il Napoli sia superiore alla Juve, e secondo me non è detto che sia così. Mi è sembrata una partita assolutamente alla pari, cioè lo stesso discorso vale per la Juve adesso, perché c'è stato questo gol all'88esimo che cambia tutto e ci esposta sul banco degli imputati il Napoli, ma in realtà quella era una partita da 0-0, quindi lo stesso identico ragionamento tu potevi farlo anche a proposito della Juve. E potevi dire: perché la Juve, che è sotto i 2 punti in classifica e gioca in casa contro il Napoli, è così rinunciataria? Quindi alla fine secondo me sono state tutte e due rinunciatarie, perché è stata una partita bloccata fra due ottime squadre che ci hanno regalato poco spettacolo. Al Napoli pareggiare a Torino andava benissimo, poi è chiaro che questo gol alla fine sposta, no, tutti gli equilibri, i ragionamenti, per cui improvvisamente siamo lì a interrogarci sulle colpe del Napoli e sulla genialità della Juve, ma la verità è che questa è una partita da 0-0 risolta da un gol importante, importantissimo, che adesso potrà essere magari anche di nuovo da Allegri, Pierino. e di nuovo da Allegri, Allegri. Con quelle due mosse che sembrano casuali ma non lo sono per niente. Sono d'accordo con te, però Allegri, che sai, stimo a livelli cosmici, la partita l'ha vinta esattamente facendo quello che il contrario di quello che dici tu a proposito del Napoli. Cioè, Allegri ha vinto la partita perché ha scelto l'equilibrio, ha scelto di non rischiare, di provare a far ripartire i suoi giocatori aspettando basso il Napoli, e alla fine ha funzionato benissimo, però è esattamente quello che sta imputando a Sarri. No? Quindi... Sì, sì. Anche se, ti ripeto, secondo me, ma poi ci ragioniamo sopra con gli ascoltatori, certo. 80024, 0024 numero verde, con Maurizio Crosetti che sta per arrivare con noi. Quello che è successo a Torino è successo in parte anche ieri sera a Firenze, partita che tu hai commentato, con Inter che è sempre sull'orlo, forse oltre la crisi di nervi, oggi grandi polemiche arbitrali, silenzio stampa che può essere spiegato fino a un certo punto, pessima direzione di Mazzoleni, su questo non c'è dubbio, da una parte come dall'altra. È chiaro che poi ognuno sottolinea gli errori di casa sua, no? Gli errori che lo hanno pregiudicato. Sì, direzione veramente pessima. Pessima. Tutto nasce banalmente da un primo giallo non dato a Gonzalo Rodriguez, sì, dal quale poi nascono tante cose a catena, anche per colpa dell'Inter, devo dire la verità, perché Medel, che si fa ammonire due minuti dopo per proteste, quando viene dato il giallo a Tejes, è anche secondo me un'ingenuità da parte di Medel. Però voglio dire, tutto viene fuori da lì, e poi tanti errori da una parte e dall'altra. Ecco, io non ho capito, ero ieri sera a Firenze, francamente non si è capito, è venuta la mia amica Daria Nicoli, con un altro addetto stampa dell'Inter, sono venuti a dirci che non c'era niente da dire, che non c'era nulla di cui parlare. Beh, insomma, le cose, ce ne sarebbero di cose da dire, i numeri dell'Inter fanno impressione. Che poi alla fine, se vuoi, sono un dettaglio, cioè, o comunque, insomma, voglio dire, amen, non è né il primo né l'ultimo silenzio stampa nella storia del calcio italiano, quindi adesso non è che diamo la croce soltanto all'Inter. Però francamente non si capisce se era una protesta, nei confronti degli arbitri, se era la voglia di non commettere errori. Aggiungo che ieri c'era Toir allo stadio, era la prima trasferta nella carriera da presidente di Toir, e secondo me non è un bel segnale dal punto di vista della comunicazione questo. No, non è per niente. Guarda, io rimango dell'idea, ma di principio, che chi sta zitto ha sempre torto, perché è meglio spiegare secondo me pure, tanto più che secondo me l'Inter ieri non ha neanche giocato una partita così negativa, ha giocato una partita a strappi, malissimo i primi 20 minuti, e poteva andare sotto, e questo certamente è preoccupante, però a un certo punto la stava controllando, il gol dell'1-1 è abbastanza casuale, io non pensavo che la Fiorentina avesse la forza per ribaltarla, quindi insomma, francamente non lo so. Partita difficile da leggere anche per quanto riguarda il futuro, restano dei numeri, quelli relativi all'Inter, che cominciano a fare un po' impressione, 9 punti nelle ultime 9 partite. Mio amico Marco Foroni mi manda la foto della Cacio e Pepe con code di gambero, vabbè, ma allora... Capito. Capito come si accaniscono? Capito a Fox che bella vita. Sì. Vabbè, fermiamoci per il traffico, va che è meglio. 800 24 0024. Tutti convocati. Stasera per noi era un test importante, bisognava dimostrare di essere all'altezza per poter vincere il campionato. 3 mesi fa eravamo 12esimi in classifica e i ragazzi sono stati molto bravi. È una bella iniezione di fiducia e di autostima, indipendentemente che ora abbiamo raggiunto il primo posto, però questo era uno snodo importante per il campionato da parte nostra a livello psicologico. Lei alla vigilia aveva chiesto un po' di follia. Forse non c'è stata invece troppa razionalità in questa partita. Abbiamo fatto una partita di grandissima applicazione e anche di buona personalità. Potevamo essere sicuramente più sfrontati nella fase offensiva. Questi erano Allegri e Sarri. Bentornato su questi schermi virtuali, Maurizio Crosetti, da Repubblica. Ciao, buongiorno Maurizio. A tutti voi. Ciao. Ciao, senti. Ciao Mau. Ci vediamo stasera, stasera torna in Italia, il giorno del grande ritorno di Cross. E allora anticipiamo un po' di temi, perché devi fare l'arbitro tra me e Paolo. Io mi sono beccato il bravo di Bergomi, Bergomi mi ha mandato un messaggio che ci sta ascoltando, mi ha scritto bravo, quindi da ragione a me, non a te. Una a zero, adesso sentiamo Crosetti, Pardo, sentiamo Crosetti. No, perché abbiamo idee un po' diverse sulla partita di sabato, che si è giocata come la Juventus ha voluto, dal mio punto di vista. Napoli poteva giocare un po' di più sul suo miglior attacco, che è un attacco che fa paura e poteva far paura anche ad una Juventus piena di Cerotti, poteva giocare sui Cerotti della Juventus e sul vantaggio in classifica di due punti. Intanto Sarri poi ha finito per lamentarsi di nuovo velatamente su storie di mercati e fatturati. Maurizio. La Juve ha giocato come sa e come vuole, e questa è la differenza. Cioè, la Juve ha giocato esattamente come voleva giocare. Il Napoli non ha avuto il coraggio di voler giocare come sa. La Juve è una squadra che ha acquisito questa virtù della pazienza e soprattutto della forza che non finisce mai, dei momenti estremi. Del recupero, che non è solo il recupero del tempo che scade, ma anche delle proprie energie. È una squadra inesausta. Il Napoli, che era partito bene, era in pressing nell'occupazione dello spazio avversario, come a risico aveva messo un sacco di cararmattini, però poi non ha tirato i dadi e questi cararmattini se li ha mangiati la Juve. Il Napoli a un certo punto probabilmente ha avuto anche un po' la presunzione di pensare che il pareggio lo avrebbe gestito, poi certo gli episodi lo hanno spostato, quel pareggio che poteva tranquillamente poi arrivare al termine. Allora diremmo adesso che il Napoli l'aveva gestito bene, sì. Invece no, e quella presunzione alla fine io credo che sia stata punita da una squadra che non perdona niente, non perdona neanche il braccino, ecco. Forse più che il braccino, Napoli non è che abbia avuto paura di vincere, ha pensato che potesse bastarle pareggiare e questo non va bene. Sì. Però scusate, questa roba qui 1-1? Cioè, facciamo 1-1, Pierino? No, ma io ti dico, facciamo pure 2-1, però il punto è che questa roba qui presuppone che il Napoli sia più forte della Juve. Cioè, questo è un ragionamento che ha pienamente senso se il Napoli fosse più forte della Juve, quindi ha peccato di coraggio perché poteva vincerla. Io non sono così convinto che il Napoli, cioè io sono, mi viene il dubbio che se il Napoli si fosse scoperto e avesse fatto la partita offensiva che tutti adesso rimproverano a Sarri di non aver fatto, magari la Juve avrebbe trovato degli spazi in contropiede e l'avrebbe potuto far male. Cioè, mi sembra francamente una visione un po' figlia del risultato, lo dico sinceramente. Io parto dal presupposto che queste due squadre si equivalgono. Sicuramente il Napoli aveva la formazione al completo, questo non ci sono dubbi, cosa che la Juve non aveva. La Juve aveva anche il fattore campo e lo Juventus Stadium non è esattamente un dettaglio. Quindi a me sembra francamente invece una partita da 0-0 dove alla fine per una situazione che nel calcio può succedere, una delle due ha vinto e quindi è chiaro che poi adesso stiamo a rimproverare l'altra, ma riconosciamo che siamo figli del risultato. Siamo certamente figli del risultato, Pierluigi, però a me è rimasta la sensazione che avere il miglior attaccante che c'è in circolazione, il miglior attacco del campionato e non provare a sfruttarlo fino in fondo. Ma c'è la migliore difesa del campionato, incerottata. Incerottata perché manca Chiellini, si fa male Bonucci, entra Rugani, sì, quindi questo vuol dire che il Napoli è più forte della Juve. Se voi poi dite questa cosa qui, che in questo momento secondo voi il Napoli è la più forte della Juve, se voi pensate che in questo momento il Napoli fosse più forte della Juve avete ragione. Se invece... No, io penso che la Juve sia più forte complessivamente nel Napoli, ma che il Napoli abbia il giocatore più forte di tutti, che è Higuain. La forza superiore della Juve si è espressa in questi 15 risultati, queste 15 vittorie consecutive, e il Napoli può essere più forte di tutti quando prova a esserlo, quando vuol provare ad esserlo, quando ha quella sfrontatezza, quella rapidità del gioco, quell'incoscienza che a Torino non c'è stata. Complessivamente, secondo me, la Juve è superiore, e lo dico da prima che iniziasse la rimonta, l'ho detto anche nel tuo salotto, Pierluigi, e anche in questa radio spesso. Sono convinto che la Juve, ma non sono convinto adesso dopo il risultato, quindi la mia convinzione non è figlia del risultato di sabato, ma della conoscenza profonda che ho della Juventus e di questi uomini, di Bonucci che ferma Higuain con una gamba sola, eccetera. E io sono convinto che la Juve vincerà lo scudetto, ma ero già convinto di questo un paio di mesi fa. Non ero convinto di questo, ovviamente, a ottobre, a fine settembre, che sarei stato un demente. Lì ero convinto che invece si fossero lasciati scappare un po' la concentrazione e i fili il bandolo della matassa. Quando l'hanno ritrovato, non c'è nessuno che possa tessere meglio della Juve, ma proprio non esiste. Ragazzi, come valutate invece le parole di Sarri che dice non abbiamo l'obbligo di fare la corsa sulla Juventus? Mi è sembrata una velata critica al mercato. Lo dice sempre, lo dice anche in privato. Lui è convinto di avere una rosa un po' più corta di quella della Juve e forse ha anche ragione. Ma secondo te è rimasto deluso dal mercato quando ha sempre detto no, mercato non mi interessa, non so neanche se c'è, ci pensa la società? No, ma lui pensa di avere una rosa un pochino più corta. Io però ti dico una cosa, che se il Napoli ha due partite molto complicate. Eh sì, quelle sono importanti. Perché Milan e soprattutto Fiorentina fuori casa sono due passaggi cruciali. Però secondo me se salta questo ostacolo, oltretutto nella settimana della doppia sfida col Villarreal, beh, insomma, io ribalto il discorso. Io ho visto una squadra che l'altro giorno, con due punti di vantaggio sulla Juve, è andata allo Juventus Stadium, che è un posto dove non passa nessuno, e ha fatto gara pari. L'ha fatta pari, non l'ha fatta inferiore. Non ha concesso una palla gol a Dybala in avvio di ripresa e poi il gol. Questo è quello che è successo. Quindi, francamente, secondo me il Napoli l'altro giorno, risultato a parte, esce rafforzato, secondo me, dal punto di vista di autostima. Poi, siccome il risultato nel calcio non è mai un dettaglio, ha sempre una spiegazione e ovviamente ha sempre poi un'incidenza, vale tre punti che pesano tantissimo, bisogna vedere come reagisce. Ma dal punto di vista della prestazione, io ho visto una squadra, io l'altro giorno eravamo di fronte a questa partita, non avevamo indizi. Io alla fine di questa partita ti dico che queste due squadre si equivalgono, non ho avuto la sensazione che una fosse più forte dell'altra. Poi si può pensare che una comunque abbia sempre una sorta di ispirazione divina, di magia, che l'altra magari non riesce ad avere. Questa può essere un'idea, no? I segni del destino dei signori del calcio lassù che guidano gli astri, questo si può pensare, ma dal punto di vista della prestazione... Se il padre eterno sia tifoso della Juve si sa da un secolo, Sì, cioè, non c'è, in troppe occasioni... In Europa no, in Europa no, perché in Europa la Juve sarà tante volte... In Europa altre preferenze. Fortunata, secondo me. Io... ma lui si concentra sul campionato, crede che conti più il Giro d'Italia del Classico, no, in realtà è vero, in Europa la Juve soffre da sempre, però in attenzione Europa... a Juve-Bayern, posso dire, attenzione a Juve-Bayern. Magari, attenzione guarda, Juve-Bayern, sì, Juve-Roma ogni giorno che passa sempre di più attenzione a Juve-Bayern. Ma pure la Roma, tutte e due devono crederci, perché... Ma la Juve secondo me ha più possibilità, facendo un po' di giochino di numeri, secondo me la Juve è 40-60 e la Roma è 25-30 a 70-75, però tutte e due secondo me rispetto al giorno del sorteggio sono cresciute e le avversarie hanno degli acciacchi, per cui è doveroso crederci, è doveroso provarci e poi secondo me nel caso di Juve Bayern sono d'accordo, è quasi equilibrata. Dicevi Maurizio? No, dicevo che il padre eterno ti fa Juve e quest'anno certamente in alcuni snodi la fortuna che la Juve spesso si conquista meritandola le ha sorriso indubbiamente, penso al derby, penso anche a quella deviazione, c'è questa mano di Reina che dava proprio l'impressione di essere di sul pallone, vero? La palla, sì. E poi, vabbè, poi la farfalla ogni tanto piglia un'altra direzione, un soffio di vento la sposta e vabbè, però insomma non sarà un campionato che si vince per un'autorete oppure una deviazione, io questo non credo, io non immagino un equilibrio totale fino alla fine, che sarebbe molto bello e sono molto curioso delle prossime due partite del Napoli, anche un po' delle prossime due della Juve, perché quando Bologna poi non è banale. Il Bologna non è banale e la Champions è una cosa che poi si appiccica la testa e ti prosciuga un po', è un sanguisuga la Champions, la Juve è andata benissimo in questi tre mesi anche perché non aveva ovviamente quel pensiero e quel fastidio, quell'ingombro nei muscoli, nei nervi, però insomma adesso si scivola verso una primavera molto divertente, chi ama il calcio tutti noi abbiamo la bava alla bocca, che bello che torni la Champions, io non ne potevo più, scusati, io non ne potevo più, ma nessuno di noi, la Champions mi fa stare fisicamente malissimo, sì, ma nemmeno noi, andiamo in crisi d'astinenza totale. Senti, ma Maurizio, per chiudere, exit poll terzo posto, Fiorentina e Roma su, Inter sempre più giù, sale anche il Milan, ma io sul Milan continuo a pensarla come Barbarella Berlusconi. Beh sì, ti somiglia anche fisicamente, sono più o meno siete lì. Sì, guarda, due gocce d'acqua. No, penso che vabbè, in questo momento siamo tutti sempre figli del risultato e fratelli dell'ultima partita, delle ultime cose viste, diciamo Fiorentina. Però insomma, la Roma è una squadra che può fare molto meglio di quello che ha fatto finora. Milan è una squadra strana, in rimonta, credo che abbia dato il peggio di sé e ha il terzo migliore attaccante del campionato, un giocatore che a me piace tantissimo, Bacca e non solo, e anche alcuni giovani che non sono poi malissimi, una squadra forse costruita non benissimo, però insomma potrebbe anche arrivarci, chi l'ha detto? Che non poi può. A Balotelli che ieri insomma... che ieri ha fatto felice Mihajlović, finirà col farsi mettere le mani addosso come regini del derby, come regini del derby. Maurizio, ti vedo stasera da Pardo. Sei un buon gustaio se fai così, grazie. Bravo. Ciao Maurizio Crosetti. Ciao. Pier, parliamo con Pieraldo da Rimini, che aspetta da un Assolutamente. Po'. Prima Pieraldo, della prego, borsa. Pieraldo. Pieraldo, buongiorno. Buongiorno. Dica. No, avevo chiamato per il discorso sulla partita Juventus-Napoli, sui commenti che facevate. Volevo portare un esempio, però ho visto che in trasmissione già avete dato delle risposte, ma in base anche ai cambi fatti da Allegri a 20 minuti dalla fine, se quel tiro casuale che è entrato in porta succedeva al contrario, i giudizi cambiavano completamente, no? I vostri giudizi nei confronti dell'allenatore. Il calcio non è così, eh. Cioè, no, io però sono d'accordo. Possiamo sono cambiare, d'accordo. Sì. Però è la Juventus che si è costruita questo tesoretto finale con un po' di fortuna e con il risultato non è mai da sottovalutare e ha un'incidenza enorme, però non dobbiamo, no, cioè, a un certo punto a Roma avevano fatto uno striscione mai schiavi del risultato, ecco, questo è un classico esempio in cui non bisogna essere schiavi del risultato perché è stata una partita alla pari. È stata una partita alla pari e se fosse finita 0-0 oggi noi saremmo divisi fra quelli che dicono che il Napoli ha perso un'occasione perché poteva andare più 5, ma anche quelli che dicono che la Juve sarà troppo rinunciataria perché ha pareggiato 0-0, ha accettato questo tipo di risultato in casa quando doveva recuperare, visto che era a meno 2. Continuo a credere che quelle parole della vigilia di Buffon non fossero casuali, non fossero un bluff. Posso dirti una cosa che mi ha molto colpito, e secondo me è uno dei segni della forza della Juve, quello che ha detto Buffon anche nel post partita, quello che ha detto Allegri anche nel post partita. Il fatto del pareggio che era un risultato giusto, il fatto che il pareggio ci poteva stare, che non sarebbe stata una tragedia. Secondo me nella forza della Juve c'è anche questa tenuta mentale, questa consapevolezza anche dei propri limiti, sì, e della forza dell'avversario. E questo secondo me è veramente molto molto importante. L'altra sera è venuto fuori con una chiarezza nelle dichiarazioni enorme. E allora sentiamo Buffon e poi la borsa e poi torniamo. Questa vittoria può uccidere il Napoli? No, uccidere il Napoli no, sicuramente. Il Napoli non è una squadra rendevole e non lo è il suo allenatore e sicuramente non lo sarà perché ha fatto un'ottima gara, è stata punita probabilmente immeritatamente a 2 minuti dalla fine. Siamo molto felici per questa vittoria, per il primo posto, ma sappiamo benissimo che non possiamo concedere nulla perché dietro c'è una squadra forte che ci crede e di ottimo temperamento. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Si ricomincia. Tutti convocati. Non ho detto niente di offensivo, però loro sono così. In che senso così? Sono così particolari, suscettibili. No, ma non so cosa dire sul fallo. Si vede che D'Amato non se la regola, io non lo so. Io penso che noi abbia fatto un'ottima partita nel primo tempo. C'era un'espulsione da ultimo uomo che l'arbitro non ha dato. Allora, siccome tutte le volte che a noi i nostri difensori toccano un avversario, c'è un'ammonizione, c'è un'espulsione, c'è un rigore in continuazione, allora voglio capire se le regole sono uguali o non sono uguali. Quindi sono 2-3 episodi oggi dove l'arbitro è stato un disastro, così i suoi collaboratori. Poi, insomma, basta questo e loro sono stati peggiori in campo probabilmente. Cosa pensa Mancini? Non commenta? Sta pensando. Non ho niente da dire. Non è silenzio assenso come si dice di solito? No. Non ho niente da dire, veramente. Ma domani chiarisce qualcosa magari con gli arbitri per distendere un po' la situazione? Si presenta al raduno? Parliamo della partita, ma se dobbiamo parlare, per cortesia. Non parlerà nessuno, non parleranno i giocatori, non parlerà soprattutto Roberto Mancini. Prima spiegazione perché non c'è niente da dire, c'è molta delusione, c'è anche un po' di rabbia, evidentemente per il periodo di qualche decisione arbitrale, due espulsi anche in questa partita che un po' hanno fatto arrabbiare l'allenatore e quindi tutto un momento che la società in questo preciso istante ha deciso di non voler spiegare e commentare, quindi per questa partita è legato al risultato e al finale della partita con la Fiorentina non parlerà nessuno. Mancini quando parlava, Mancini ora che sta zitto. Auguri con un po' di ritardo, Valentino, provincia di Bergamo. Grazie, buona giornata che mi avete chiamato. Grazie. Se mi permettete di dire due cose, per me la Juventus, anche se sono interista, quando la Juventus è indietro 11 punti, ho sempre scommesso che la Juventus avrebbe vinto lo scudetto. Era uno dei pochi. No. Quando era dietro di 11. Allora, io sono un matematico, sì. Controllo le cose. L'Inter è andata avanti a spintone con 1-0, ma di gioco 0. Io come interista, Mancini non l'avrei mai voluto all'Inter, mai. Perché continua a prendersi un sacco di scuse e non si prende le sue responsabilità. Se questi giocatori sono nervosi, vanno in campo, si picchiano, non è colpa mia, è colpa dell'allenatore che non è capace di stimolarli. Chissà perché alla Juventus queste cose non succedono, al Napoli non succedono, solo all'Inter ci sono sempre queste scuse da prendere. Ma io dico, un allenatore che prende 5 milioni all'anno si deve prendere queste scuse. Ma io domani mattina non mi presenterei neanche la pinettina, prenderei le valigie e me ne vado fuori dalle scatole. Scusate il mio intervento da tifoso interista. Intervento da tifoso. Comincio a avere le scatole piene di Mancini, fuori dalle balle. La ringrazio, buona giornata, sento risposta tramite radio. Grazie a lei Valentino, sentitamente ringrazio anche Mancini, credo, parlo. Sì, ma insomma, sull'Inter è tutto normale, fatto... no? Tutto normale che in un momento come questo finisca in tritacarne Mancini. Sì, è tutto normale, anche se ci sta mettendo, secondo me, l'Inter del suo per rendere tutto questo ancora più letterario e diabolico e quindi poi masochistico, nel senso che secondo me, insomma, già la partita di ieri, come che si era messa bene a un certo punto, l'Inter poteva portarla a casa, quantomeno non perdere, e poi pur perdendola poteva fare una figura migliore di quella che ha fatto con questo silenzio, che alla fine poi è soprattutto negativo, secondo me, sul piano della comunicazione, perché se non parli tu parlano gli altri, e certo. Se parlano gli altri parlano della confusione di una squadra che ha vinto una partita nelle ultime sette, che adesso improvvisamente è diventata sfortunata, perché va anche detto questo, insomma, cioè così come io all'inizio della stagione sottolineavo che l'Inter aveva avuto delle situazioni fortunate, secondo me, lo ribadisco, adesso bisogna riconoscere che non le va bene una. Sì. Ma i numeri sono lì a dimostrarlo. Sì, c'è una serie di episodi, però il nodo è quello che diceva l'ascoltatore, cioè l'Inter, lo dicevamo all'inizio della stagione, per poter vincere il campionato, io l'ho sempre detto, doveva trovare un gioco, questo gioco non l'ha trovato. No, ma mi sembra si sia persa proprio nel bosco, cioè Mancini ha provato a cambiare totalmente le cose e la sua filosofia iniziale, dopo la difesa blindata e il turnover forsennato e scientifico, la ricerca di una stabilità che diventi invece difficile. Ciao Roberto Cravero. Ciao, buongiorno a tutti. Roberto Cravero che era a Cattapardo ieri sera a Firenze, mi pare. Sì. Qual è il tuo pensiero? Dove sei? Dove sei che non si sente niente? Sei in macchina? Dove sei? Sono in macchina, sì, sto tornando. Quindi t'ho presentato il telefonino io praticamente, si sente peggio del mio. Dove sei? Sei quasi arrivato a Venaria Reale? Sei quasi arrivato? Sono arrivato a Venaria. Meno male, questo quando arrivi fatti una bagna cauda che ti dà un po' di conforto. Bene. Roberto, cosa ne pensi dell'Inter persa nel bosco? E saprà ritrovarsi per tempo? No, non so se il tempo aspetterà l'Inter, perché ha perso ormai troppe occasioni. Ieri ha perso una grande occasione, perché dopo 20 minuti giocati dalla Fiorentina in quel modo comunque riesce a passare in vantaggio. Ed è lì che la grande squadra, la squadra con personalità, fa vedere la propria forza. Invece, dopo diciamo un altro buon momento, l'Inter è naufragata dal punto di vista, anche dal punto di vista fisico. Questo mi stupisce, perché anche errori di passaggio, ma proprio la Fiorentina ha preso sopravvento, e poi va bene. Molte polemiche, perché penso che il silenzio di Mancini sia un silenzio polemico verso gli episodi che io, Pierluigi, sinceramente, analizzandoli tutti, non c'è stato un episodio che ha cambiato o ha fatto sì che la Fiorentina vincesse. Anzi, se c'è un episodio negativo è contro la Fiorentina, perché il rigore di Telles era abbastanza netto, con la seconda munizione Telles sarebbe uscito magari 10 minuti prima. Sì, mentre la seconda proprio non c'era, quella. Ma poi sai Roberto, adesso ho ricevuto anche diverse mail di interisti che sottolineano gli errori commessi ai danni dell'Inter. Ieri Mazzoleni non per essere banali, ma ha sbagliato tutte e due le parti, ha arbitrato male la partita. Ha sbagliato di tutto. Mi lasci dire proprio a Luigi che ieri il migliore in campo è stato Paolo Sosa, dopo un periodo piuttosto difficile, in parte nascosto, in parte tenuto sotto traccia. I della Valle ieri non erano allo stadio, qualcosa è successo, magari si è ricomposto. Però posso dirti che a conti fatti ieri, anche per la lettura della partita, è stato il migliore in campo? Sì, beh, ha fatto due sostituzioni che sono state decisive. Premesso poi sempre che il calcio in parte è anche un mistero, perché il gol di Babacar è un gol abbastanza casuale. Però ecco, per esempio, la prima sostituzione è una sostituzione che Cravero stava già chiedendo da una quindicina di minuti e che era assolutamente logica, perché Teio stava faticando tantissimo e Starate in quella posizione invece ha dato molto di più. E anche Babacar è una sostituzione a quel punto giusta, perché 11 contro 10 c'era bisogno di un pochino più di fisicità davanti. Quindi diciamo ieri sono state due cose logiche, poi ovviamente insomma il calcio è un mix fra logica e irrazionalità, e c'è anche il fatto che Babacar segni con questo flipper il gol. Beh, Gollonzo con errore di Handanovic, che anche lì possiamo tornare sul fatto che prima prendeva anche le mosche, adesso fa qualche errore, ma anche questa fa parte della logica del gioco. Alessandro Novara, buongiorno. Buongiorno e grazie della convocazione. Grazie a lei. E volevo soltanto fare una piccola premessa. Io penso che ieri, al di là del risultato, perché probabilmente sarebbe stato lo stesso, l'arbitro ha rovinato la partita, perché io penso che errori da una parte e dall'altra, come avete detto giustamente voi, ci sono stati, però c'è stata anche una disuguaglianza di interpretazione, perché per dire il fallo tattico a centrocampo lì doveva essere munito, eccetera eccetera eccetera, ma questo è un'opinione personale. Per quanto riguarda invece il gioco dell'Inter, io penso che a questo punto del campionato, se Mancini avesse avuto un'idea precisa di cosa doveva fare la sua squadra, si sarebbe visto. Io ieri ho visto per l'ennesima volta una squadra che non sapeva cosa fare e che non aveva personalità, perché se vinci 1-0 a Firenze tu la devi portare a casa, punto. Non ci sono scusanti, hai perso la partita, puoi dire quello che vuoi sull'arbitro, ma la partita l'hai persa. Sì. E se vinci 1-0, come hai fatto mille volte, la porti a casa. Sì, forse quell'Inter là di inizio stagione forse l'avrebbe portata a casa. 800 24 00 24, traffico un attimo e torniamo. Tutti convocati. Progetto Fuoco, Fiera di Verona, 24-28 febbraio, progettofuoco.it vi presenta. Tutti convocati. C'è anche di nuovo Roberto Cravero. Io volevo capire se questa immagine di confusione che l'Inter rimanda si nota anche vedendola dal campo, dalla tribuna, dalla cabina di commento. Questa immagine di una squadra che non sa più bene dove andare. In questo hanno ragione gli ascoltatori che sono intervenuti. Sì, ti ripeto quello che ho detto prima. La maturità dell'Inter del primo periodo era comunque questa grande solidità. E dov'è finita, Roberto? Esatto, dov'è finita? Invece adesso, anche ieri, Miranda, giocatore, secondo me, più forte della difesa. Più forte, assolutamente. Ha fatto degli errori di una banalità assurdi. Ecco che se ti manca anche lui, gli altri che vengono poi retti dalla sua esperienza, dalla sua personalità, poi vengono a mancare. Ha ragione Pierluigi quando dice che comunque in questo momento è una squadra anche che gli gira male, perché comunque al 91esimo ti porti a casa l'1-1, sarebbe stato tutto completamente diverso. Il gol è avvenuto per due rimpalli che difficilmente possono capitare, però c'è molto da lavorare. Posso tornare un attimo su Paolo Sosa, quello che dicevate prima, che vi ho lasciati lì. Le sostituzioni, Pierluigi, erano semplici, però. Sì, certo. Erano semplici, perché io e te l'avevamo detto a fine primo tempo, a microfoni chiusi, abbiamo detto no, non può tenere in campo Teglio, perché non gli ha dato assolutamente niente. Però è stato bravo, perché con le due sostituzioni ha tolto i due peggiori in campo. Quindi quando un allenatore vede la partita e vede che i suoi due peggiori in campo non rendono al massimo, perché l'altro è stato Ilicic, che non ha dato quell'apporto che siamo abituati, è stato bravo in quello. Quindi vuol dire che un allenatore che, nonostante la tensione della partita, riesce a leggerla sempre nel modo giusto. Ma ditemi ancora una cosa sull'Inter, poi cambiamo argomento, ci sono anche altri ascoltatori. in quale direzione deve andare adesso l'Inter? Quella di inizio campionato è persa, no? Si è persa in una serie di risultati negativi, in una condizione fisica approssimativa, nel fatto che ha cominciato a prendere gol. Adesso Mancini ha cambiato totalmente strada e filosofia. Dove deve andare, secondo voi, Pier? Ma dove deve andare? Cioè, deve tornare. Che deve fare? No, deve tornare alle basi. Alle basi che hanno consentito all'Inter di essere in testa alla classifica per metà stagione. Cioè deve tornare ad avere, secondo me, una solidità di fondo che è importante. E poi e riprendere la logica del turnover? La logica del turnover, sai, la logica del turnover in realtà per lungo tempo l'avevamo considerata, era stata considerata come una forma di debolezza di un allenatore che non aveva ancora le scelte giuste. Guarda, per me la cosa che è cambiata è la solidità. Cioè l'Inter dei primi tempi era una squadra comunque solida, una squadra alla quale facevi molta fatica a segnare. C'erano anche i miracoli di Handanovic, però comunque c'era una robustezza, una muscolarità, una condizione fisica invidiabile. Poi davanti spesso bastava la giocata, una volta era Jovetic, una volta era Ljajic, una volta era Riccardi, una volta era Palacio, anche se poi Palacio in realtà segnava pochissimo. Adesso il paradosso è che la squadra sembra aver trovato di più una sua fisionomia, sì. però i risultati vengono meno, su questo non ci sono grandi dubbi. A me sembra che il punto di partenza è quello lì. E poi penso anche una cosa, non mi ricordo con chi ne parlavamo ieri nel post partita. Io credo che Medel, che continua a essere un giocatore importantissimo per questa squadra, sia in qualche modo una constatazione, con tutto rispetto, del limite dell'Inter. Nel senso, il fatto che Medel sia uno dei migliori della stagione nell'azzurra è un po' come quando Gargano era il migliore, sì, del certo, centrocampo, hai ragione, del Napoli. Hai ragione. Buon giocatore, difensore prestato al centrocampo, buon interditore, grandissimo gregario, ma veramente chapeau, cioè, complimenti per quello che riesce a fare. Però ecco, se la qualità del centrocampo dell'Inter, se il migliore centrocampo dell'Inter, il più insostituibile è lui, allora Houston abbiamo un problema. Roberto, per chiudere, ma la Fiorentina mi sembra di capire che ad entrambi non ha entusiasmato fino in fondo. Ne a te ne parlo. Sì, non ha avuto quella continuità che ci aspettavamo. È partita 20 minuti molto bene, ma secondo me per un discorso tattico, dove soprattutto sulla fascia destra Nagatomo non era aiutato dal centrocampista che era Brozovic, quindi Bernardeschi si accentrava, c'era la sovrapposizione di Alonso e Nagatomo si trovava tra due uomini e a quel punto diventava difficile. Però nel momento che non hai chiuso, cioè non è riuscito a passare in vantaggio, poi la Fiorentina nel momento che è calato un po' fisicamente, l'Inter ha preso il sopravvento. Però la reazione nel secondo tempo è stata buona, cioè nel senso, una squadra per arrivare in Champions probabilmente deve trovare una continuità di gioco che ancora non ha. Che in questo momento non ha. Grazie Roby. Ciao, presto. Ciao. Buon ciao, viaggio ciao, verso ciao, Venaria. Ciao. Venaria reale. Reale. Non scherziamo, reale. Con le cose serie. Alessandro, buongiorno. Sì, buongiorno e grazie per la convocazione. E dunque, brevissimo. Allora, secondo me il Napoli con il Milan rischia anche parecchio. Sono molto curioso di vedere quella partita lì, molto sì, molto curioso, perché secondo me il Napoli ha il morale scosso, all'Europa League, ha quindi anche una relativa stanchezza che comporterà questa gara, non ha delle riserve eccezionali, quindi non è che può mettere in campo, diciamo, un Napoli B, sì, magari farà qualche piccolo ritocco, ma niente di più. Ma secondo me presumibilmente in Coppa. E il Milan è in un buon momento, secondo me Mihajlovic ha ragione, in questo momento il Milan è una squadra rognosa da battere, perché ha trovato un suo equilibrio e vedo anche, diciamo, che fisicamente stanno molto bene. Sì, e poi solo per chiudere, l'Inter, ricordiamoci un po' le prime tre partite, vittoria al 94 con l'Atalanta, con due pali dell'Atalanta, vittoria al 90 con il Carpi su rigore e vittoria meritata nel Milan. 9 punti e insomma lì li prese la solidità. Ma ci vogliono anche quelli, ci vogliono anche quelli. Non dimentichiamo che la stagione della Juventus è girata in un derby che Pardo ha detto mille volte, è stato vinto senza meritarlo fino in fondo. Quindi è anche così. Quanto al Milan, invece, davvero c'è grande curiosità di vedere lunedì sera quella partita per capire come il Napoli metabolizza questa sconfitta. Però mi sembra una squadra, almeno fino adesso è stata una squadra sufficientemente matura. Sì, sì, è stata sufficientemente matura. No, sul discorso iniziale di episodi ce ne sono tanti all'inizio della stagione che hanno dato fiducia all'Inter. L'Inter è partita con questo abbrivio sicuramente dovuto a una serie di situazioni, appunto Atalanta, Carpi, Derby, che le hanno dato spinta e autostima. È anche vero però che insomma a novembre-dicembre avevamo visto una squadra che sembrava lievitare, che aveva cominciato a vincere bene delle partite, penso a Frosinone, penso all'Udinese, penso allo stesso Inter Genoa che è stato un 1-0, ma un 1-0 largo. E poi qualcosa si è rotto. E poi io, ragazzi, penso anche, perché è un tema sempre in casa Inter, che comunque quest'uscita che Mancini ha avuto con Sarri non so se abbia creato problemi, però insomma valuto le situazioni, cioè da quel giorno in poi l'ambiente nell'azzurro è diventato improvvisamente complicatissimo. Sì, è vero. Complicatissimo, sono successe una serie di cose. Allora, magari quella lì era già in qualche modo un segnale, al di là del merito della vicenda, che l'abbiamo ribadito mille volte, che quella parola lì non nel quale inutile entrare, non certo. Nel merito, però voglio dirti, quella cosa lì strana che è successa quella sera a San Paolo, se poi l'analizziamo del mese e mezzo dopo, mi lascia pensare che forse ci fosse qualche problema, che fosse in qualche modo un indizio che qualcosa dal punto di vista proprio della stava magari sfuggendo della gestione di mano. Gli stava sfuggendo di mano, ecco. Pier, ti vedo stasera con Crosetti e con... Ma stasera c'è Storari. Ah, Storari. Sì. Beh, che insomma è un po' che non si vede, ma che è stato uno dei leader dello spogliatoio della Juve all'inizio della stagione, quando si parlava delle partenze di gente come Tevez, come Pirlo, come Vidal. Poi c'era sempre un quarto moschettiere che, dal punto di vista del carisma dello spogliatoio, chi conosce l'ambiente Juve sa benissimo che era importante. Quindi sarà chi meglio di lui, insomma, per raccontarci qualcosa della stagione, del carattere della Juve. E poi sta facendo anche molto bene col Cagliari, insomma, scongiuri, però insomma Cagliari è messo molto bene per tornare immediatamente in Serie A. E poi abbiamo il mezzo mondo, abbiamo una grande sorpresa da Sanremo, ma proprio grandissima. Abbiamo Papaleo, abbiamo Serenautieri, ovviamente tutto Juve-Napoli con Zampini, Mughini da una parte, De Giovanni, Maurizio De Giovanni e Auriemma dall'altra. E poi viene Milan stasera, il signor Milan. Radio 24, il signor Milan, quindi se domattina lo sentite un po' stordito, abbiamo capito perché. Va bene, viene Milan a parlare di Milan. Trattamelo bene. Crosetti, ciao Pier, domani. Ciao. Ci fermiamo per il GR, torniamo. Ernesto, provincia di Lodi, stia lì. 800 24 00 24, numero verde. Signori, alla prossima. Tutti convocati. Gira il mondo, gira, e sempre più vorticosamente. Difficile capire tutto quello che accade, ma state tranquilli. A fine giornata vi racconto cos'è successo in Italia e all'estero, con i servizi della redazione e con gli ospiti in diretta. Effetto notte, le notizie in 60 minuti, dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 22, con Roberta Giordano. Che dire, arrieccici. Convocati. Hai visto Juventus-Napoli ieri? Il Napoli è il vostro prossimo avversario settimana prossima, che idea si è fatto? Non ho visto la partita. No? No. Si aspetta un Napoli... Guardavo James Bond. Ah, beh, buono anche quello. Quale James Bond? Primo? Spectre. L'ultimo. Ma non l'ha neanche registrata? Non l'ho visto due volte. No, Spectre, dico, la partita. Alla partita? No. Vabbè, facciamo finta di crederci. Non frega niente. Nel Napoli, il prossimo avversario del Milan, Sinisa si sente a questo punto come James Bond, fortissimo, invincibile. Qualche ragione ce l'ha anche, perché è vero, il Milan sta crescendo, ma sta crescendo in modo naturale e fisiologico, a differenza dell'Inter, e come ha fatto la Juventus e come fece il Napoli a suo tempo. Si è tolto ogni dubbio sul modulo e anche su una formazione di base, giocatori che hanno trovato continuità di rendimento giocando, inserendosi in quel modulo. L'esempio mi sembra sia Honda, che veniva sbeffeggiato dal mondo intero milanista e non solo fino a qualche tempo fa, che adesso sta inanellando una super prestazione dietro l'altra. Vorrei risolvere un mentre la Marotta fa sapere che Allegri rimarrà alla Juventus ancora per molti anni, molti quanti non si sa, quindi Chelsea cambia idea, cambia obiettivo, questo pare aver detto Marotta. Volevo risolvere un caso mano che mi preoccupa un po', perché mi è arrivato un WhatsApp che è questo: ciao bella, hai l'ombrello? Se ti serve te lo porto io mentre vado a prendere mia mamma, fammi sapere. Ora, noi non possiamo fare niente, però possiamo rilasciare nell'aria questo appello. Ernesto, buongiorno. Buongiorno gente, grazie per avermi convocato. Grazie. Io sono uno juventino, sabato sera ho visto la partita discretamente noiosetta. Abbiamo avuto l'occasione con Dybala. Sentite cosa ha detto Sacchi ieri? Qui a Radio 24? No, non ho sentito. Ha detto che è una di quelle partite che ha fatto complimenti di qua e di là, più a Sarri che non ad Allegri. Però ha detto una di quelle partite che se negli altri paesi, se uno la sta guardando dopo 10 minuti gira, cambia canale. Sì, ma io sono andato al bar a vederla per rimanere sveglio in compagnia dei miei amici, e visto che era anche carnevale siamo rimasti svegli anche con le ragazze infermiere che venivano vestite. Ma perché no? Per tirarci su di morale. Ma cioè l'avete fatto strabene. Allora io volevo fare i complimenti ad Allegri, del quale sono un estimatore dal primo giorno che è arrivato alla Juve, non adesso perché voglio salire sul carro dei vincitori, e volevo, visto che ieri era la domenica delle ceneri, cospargere un po' di cenere sul capo di un vostro collega che il 15 di settembre, andate a sentirvi la registrazione della puntata, aveva criticato aspramente Allegri. Vorrei che lo richiamaste per chiedergli se pensa ancora le stesse cose. Il 15 settembre io ho un po' la memoria di un pesce, non ricordo chi fosse, ma se non mi ricordo male era Giancarlo Dotto, se non mi ricordo male. Giancarlo, provvederemo Ernesto, provvederemo con un bel secchiello di cenere, ma ce n'è per tanti, anche per molti juventini, moltissimi juventini che non la pensano come lei. Giulio, buongiorno. No, buongiorno, io ringrazio per l'opportunità. Sono ahimè interista, dico ahimè perché ritengo la stagione nettamente compromessa, molto probabilmente anche per l'Europa League, visti tutti i problemi che ha questa squadra, che però francamente ha, ritengo, un organico da poter lottare comunque per il terzo posto. Nonostante tutto non ci riescono, non so perché, c'è tanto casino, tanta confusione, tanti problemi. Poi francamente ritengo patetica la scelta di non presentarsi alla stampa, di non parlare, sì, secondo me, ma per principio è sempre una scelta sbagliata, perché vai lì e spieghi le tue ragioni, dici quello che vuoi, le domande che non gradisci, puoi anche appellarti al quinto emendamento se non vuoi parlare di arbitri o di quant'altro, se sei troppo nervoso, però non parlare, io la ritengo sempre una mancanza di rispetto, ma non tanto nei confronti dei giornalisti quanto nei confronti dei tifosi, che invece in momenti come questo sono abbastanza curiosi di sapere, no? Hanno abbastanza voglia di sapere che cosa sta succedendo. La verità sta nei numeri, questa crisi dell'Inter è davvero troppo lunga, 9 punti nelle ultime 9 partite, 5 perse nelle ultime 12, due sole vittorie, peraltro non convincenti, nelle ultime 9, cominciano a essere numeri piuttosto pesanti, soprattutto non si vede, non si capisce bene quale possa essere la strada da intraprendere, perché dicevo prima, Mancini ha cambiato la filosofia iniziale, che si basava su una difesa rocciosa, su un centrocampo che riusciva a fare argine con Medel solito e con il tanto vituperato, ha ragione peraltro, Felipe Melo, che era in discrete condizioni fisiche, di lì non passava nessuno e quando qualcuno passava c'era Handanovic. Davanti un golletto si trovava e l'Inter è andata avanti così per un po'. Poi, dopo il derby, diciamo, Mancini ha preferito adottare un 11 di grosso modo titolare, andare in un'altra direzione. È una squadra magari più logica, che concede però di più, ha cominciato a subire molti gol e insomma tira di qua, tira di là, le cose non funzionano più. Non so quale possa essere la via di uscita. Vorrei fare un salto all'estero, perché ieri è successo di tutto. Lancio per Lewandowski, che è solo davanti a Hitz. Lewandowski, e non può sbagliare. Robert Lewandowski, la macchina da gol per eccellenza in Bundesliga. Dentro il tocco di Welbeck, incredibile, rientra dall'infortunio Welbeck e fa il gol del 2-1 a tempo scaduto. Danny Welbeck l'ha sbloccata ancora lui per l'Arsenal, dalla panchina trova il gol del 2-1, incredibile. Ora l'Arsenal è in vantaggio all'ultimo respiro. Parte ancora Messi nella notte di San Valentino, il primo soccolatino lo regala Leo Messi, che ha fatto 13 in campionato, 298 nella Liga, passa il Barcellona con una magia del suo pallone d'oro. Buonasera. Sempre Leo Messi, pallone incollato al sinistro, saltato Johnny, poi si ferma, lo salta ancora una volta Messi che va giù, calcio di rigore per il Barcellona. Messi la lascia lì, Suarez, 5-1 del Barcellona, hat-trick di Suarez e calcio di rigore battuto in maniera assolutamente innovativa. Sì, innovativa, ma l'avevamo già vista nel giorno di San Valentino, Messi che regala gentilmente il gol a Suarez battendolo come una volta fece Cruz, cioè toccando in avanti la palla, cosa perfettamente consentita al regolamento, e appoggiandolo sul destro del cannibale. Ciao Nicola Roggero. Buongiorno, buongiorno a te e agli ascoltatori. Fanno un po' i fighi questi del Barcellona. A me non è piaciuta, perché a me ci vuole rispetto per gli bravo avversari. Bravo Nicolino, bravo, bravo, bravo. Soprattutto se uno vuole fare una cosa di questo genere, lo fa sull'1-1 al 90esimo. Allora nel quel caso è una provata e si assume i rischi. Fatto sul 3-1 giocando in casa è un po' troppo comodo. Diciamo che senza istigare nessuno alla violenza, per carità di Dio, però nell'epoca pre-telecamere è una bella scarpata subito dopo la ripresa delle operazioni, ti ha rassicurata. Esatto. È uno di quei casi in cui l'allenatore guarda i due dalla panchina e immediatamente fa due cambi. Tanto per essere chiari e precisi, No, perché così non si fa, sinceramente così non si fa quando vogliono umiliarti dall'alto della loro bellezza, bravura, sono inarrivabili, ma quando fanno così veramente ti sembrano un po' il primo della classe che umilia il compagno più debole. Sì, ma soprattutto è un bel triplo salto mortale, ma con la rete sotto, perché è sul 3-1 proprio a favore. Certo. Fallo sull'1-1 e ti assumi la responsabilità poi di consegnare la partita e di consegnare il tuo errore alla delusione di chiunque. Sì, certo. Molti oggi lo incensano questo gesto di Messi. Io sono perfettamente d'accordo con Nicola Roggero, a me non è piaciuto. Stendiamo un velo pietoso su Aurier, insulti omofobi anche a Parigi. Qui siamo ben oltre, siamo proprio in un altro campo. Andiamo nel codice penale. Qui. Blanc è una checca, se la fa con Ibrahimovic, eccetera, eccetera. Non sto neanche a commentare il livello, ecco, perché abbiamo cominciato a scavare parecchio. Di Maria pagliaccio, eccetera, eccetera, eccetera. Messo fuori rosa, sine die, come giusto che sia. Inghilterra. Molti hanno notato un parallelo tra la sconfitta del Napoli e quella dell'Ester di Ranieri, che ovviamente se l'è presa con la solita signorilità, ha dato la colpa un po' alla sfiga, e ci sta, perché il gol preso da Welbeck all'ultimo minuto poteva anche non esserci, e un po' con l'arbitro, perché Ranieri ha detto così. Poi ha detto: va bene ragazzi, settimana prossima riposiamo perché siamo fuori dalla Coppa, quindi abbiamo due settimane, vi regalo una settimana di vacanza. Come la valuti questa? Ha fatto benissimo, è una cosa che per esempio faceva spesso anche Sir Alex al Manchester United, quando vedeva che gli impegni erano molto ravvicinati, dava addirittura lui a qualche giocatore singolarmente la possibilità di assentarsi per 4-5 giorni. Il giocatore poteva per esempio approfittarne per andare in Spagna al caldo, in posti dove poteva ritemprarsi, e a volte gli fa magari saltare addirittura una partita, se riteneva che questo potesse fargli bene. Nel caso dell'Ester è il vantaggio a cui accennavamo in queste settimane, cioè una squadra che è fuori dalla FA Cup e dalla Coppa di Lega e non partecipa alle Coppe Europee, e quindi uno dei vantaggi è questo, avere delle settimane buche, sì. E di conseguenza si può anche programmare un lavoro diverso e si può dare comunque una settimana di riposo alla squadra. Ranieri giustamente l'ha indicata quasi come un premio, perché ieri comunque l'Ester ha fatto un'eccellente partita, era in vantaggio quando è rimasto in 10 uomini, anche in inferiorità numerica ha sfiorato comunque il pareggio, perché bastava niente, bastava magari tenere 10 secondi in più la palla in mezzo al campo quando si era nel recupero, e quindi la prestazione comunque è stata convincente, per cui pienamente d'accordo con quello che ha fatto Ranieri. Sì, anche se noi italianacci potremmo dire, ma come, sei lì, sei in testa alla classifica, è il momento di darci dentro, di provare ad aggiustare le cose, se ci sono cose che non vanno, magari di fare un rabbocco di benzina, invece va in vacanza. Qualcuno qui storcerebbe il naso, Nick. Ma io però sono cresciuto con il grande Ajax e poi la grande Olanda, che negli anni 70 animava il quartiere luce rosso di Amsterdam, e poi in campo non la faceva vedere nessuno, quindi credo che veramente non incide niente, anzi a mio parere un po' di distrazione è anche utile dal punto di vista mentale. Ora magari quelli dell'Ester avranno una vita anche monacale, però il via di stare una settimana a disintossicarsi i muscoli e la mente, a mio parere non è affatto malvagia. Può essere un'idea valida. Sentiamo poi, cosa parto del presupposto, sì, che uno è un professionista, quindi certamente non va a rovinarsi la propria condizione nel momento più conquistare il più grande allora della sua vita. Ma certamente. Sentiamo come Ranieri ha definito la partita ieri persa con l'Arsenal. Capisco che tutti quanti i giornalisti, no, vorrebbero che noi vincessimo il campionato, ma insomma non è che anche se avessimo vinto qua, sì, con tanti punti di vantaggio, ma i ragazzi è la prima volta che stanno lassù in alto, per cui bisogna anche vedere come reagiscono, come vanno. L'importante è quello che dico io, ci piace sognare nel fare partita dopo partita, proprio perché dobbiamo affrontare squadre, ma tanto o si devono salvare o devono vincere. Ogni partita in Premier League è difficile e noi siamo la dimostrazione vivente di quanto è difficile giocare contro di noi. Ha ragione, e ci crede probabilmente, ha l'obbligo di crederci, anche se ieri il solito orripilante Manchester City, mi consenti l'aggettivo, Nicola? Il Manchester City non ha dato una mano a Ranieri, nel senso che probabilmente il punteggio che Ranieri e Leicester si auguravano era il pareggio. È chiaro, col che avrebbe Tottenham, tenuto più lontano, invece. Ma più che il Manchester City, il Tottenham. Il Tottenham, che certo che sarà più la squadra che a mio parere gioca meglio in Inghilterra, anzi gioca persino troppo bene, ogni tanto dovrebbe essere più pratico il Tottenham, anche ieri col City si è perso con un eccessivo barocco, ecco, dovrebbe invece essere più lineare, più romanico, andare più dritto al sodo, però è dato una squadra che si difende benissimo, tanto che è la miglior difesa del campionato, è una squadra che ha tanti protagonisti, una panchina lunga, è una squadra che sente che può essere veramente arrivato il suo momento dopo una ventina d'anni in cui gli Spurs non hanno sostanzialmente combinato molto, e quindi probabilmente avrebbe fatto più piacere a Ranieri all'Ester un pareggio. Sì. Ma detto che è anche un risultato che potrebbe aver eliminato forse in via definitiva il Manchester City, perché se il Manchester City è questo, è difficile pensare che possa rimontare 6 punti all'Ester, ma anche 4 a Tottenham. Certo. E no, ma chiaramente la stagione degli underdog, no? Sono Leicester, Tottenham e Arsenal che in questo momento sono piazzate lì per lo sprint per il titolo. Certo, quando ti ricapita un'altra stagione come questa in cui le due di Manchester vanno in questa maniera, il Chelsea praticamente non è mai esistito insieme al Liverpool, quando ti ricapita nella vita? Credo che però in Inghilterra potrebbe ricapitare presto, perché non dimentichiamoci che è perché col nuovo contratto televisivo, che sono l'equivalente di 3 miliardi di euro, a cui vanno aggiunto 1 miliardo di euro dai diritti esteri, credo che ogni squadra della Premier, anche le più scarse, arrivi a prendere solo quei diritti tra i 90 e i 100 milioni di euro. È chiaro che con un simile budget anche una squadra piccola, o diciamo così una squadra media, ma può ambire ad avere giocatori importanti. Certo. E quindi potrebbe anche ripetersi questa cosa. Io fra l'altro me lo auguro, perché per esempio quelle delle leghe americane, più il titolo viaggia tra i vari club, meglio è, più c'è incertezza e maggiore c'è curiosità. E migliore è il prodotto anche da offrire televisivamente. C'è chi ci critica, il gesto da rigore è stato fatto in onore di Cruyff, informatevi, lo sappiamo, è stato fatto in onore di Cruyff, ma a noi ugualmente non è piaciuto, se ci consente, caro ascoltatore. Aveva fatto male anche Cruyff all'epoca, parla uno che ha Cruyff come massimo idolo calcistico, sì, certo. Ho citato prima l'Olanda e l'Ajax, sono cresciuto a Cruyff, ma quella volta lì Cruyff mise in luce un lato che è abbastanza comune a lui e agli olandesi, dello sberleffo, una certa arroganza, sì, proprio una certa arroganza. Gli olandesi sono abituati a guardare gli altri dall'alto in basso, ne hanno molta ragione perché sono un popolo straordinario, però ogni tanto esagerano. Nicola, ti chiedo un'ultima cosa, una proiezione sulla nostra Champions League. Real bene ma non benissimo, Bayern che perde un pezzo, ogni settimana perde un pezzo e la nostra fiducia cresce. Soprattutto li perde in difesa il Bayern, perché ieri si è fatto male Bato Stuber, che poverino è davvero sfortunato, un ragazzo che aveva perso un paio d'anni fa un'intera stagione per un incidente di legamenti. Ieri si è rotto anche una caviglia, quindi sarà fuori praticamente per tutta la stagione. È operato, tra l'altro. Però il Bayern ha molti problemi in difesa, tanto che spera o nel recupero di Benassia oppure si sta addirittura pensando di schierare Vidal come difensore centrale, magari in coppia con Alaba. Quindi dovrà studiare qualcosa a Guardiola. Quanto alle due italiane, io continuo a pensare che il Real sia molto favorito sulla Roma e il Bayern sia favorito. Sulla Juventus, ecco. Il fatto che uno è molto favorito e l'altro è soltanto favorito mi fa pensare che se ci potesse essere una sorpresa è più facile che sia la Juventus, che poi sarebbe tutto sommato una sorpresa relativa, perché insomma una squadra che viene da 15 vittorie consecutive e in campionato e che guarda, l'anno scorso è arrivato in finale di Champions, è chiaro che delle chance le ha. Io oggi come oggi un 45% alla Juventus lo do, 45% alla Juventus lo do con questo ban, ma anche per altre ragioni, la storia di Guardiola, la serie di infortuni, una Juventus che ha una tenuta mentale che in questo momento può anche far paura al Bayern di Monaco. Grazie Nick, alla prossima. Grazie, un saluto. Ciao, un abbraccio, grazie Nicola Roggero. Dunque, prima di Angelo e Maurizio vi voglio far sentire le tre più belle dichiarazioni di ieri, la top 3 delle dichiarazioni di ieri nel dopo partita, cominciando da Ventura, allenatore del Torino che è tornato a vincere, e Ventura che è andato a Sanremo. È stato per ricaricarti che sei andato a Sanremo, perché io ti ho visto in seconda o terza fila, e non soltanto io, qui qualcuno ha notato che tu eri... Sei un appassionato di... Ero in ottava. Ah, in ottava? Ti sei divertito, sì? Sì, sì. No, io sono andato quando c'erano le cover, quindi non ho sentito le canzoni di Sanremo, ho sentito Revival, che è quello degli anni 70, Revival, che era più adatta alla mia... Piace Revival anni 70 a Ventura. Mihajlovic ieri non si è arrabbiato soltanto con Balotelli. Buonasera mister. Buonasera. Insomma... Vuoi scommettere che so che domanda mi fai? No, allora fagliela tu. Vediamo. Però non cambiare la domanda adesso. No, io non la cambio. Vai. Allora, la prima è che nonostante la vittoria non mi sembra felice e se è colpa per degli ultimi minuti. Hai vinto. Era questo. Sei come il libro aperto. Perché domande... fai sempre domande del cazzo, fai sempre domande. No, va bene, no. Cioè, non mi domande... sembra proprio, mi sembra la domanda invece da fare. Appropriata allora. Però. Non mi sembrava così scandalosa, la domanda del collega. Poi cosa abbiamo? Donadoni che riceverà la signora Juventus venerdì. Roberto, da quando tu sei arrivato al Bologna siete terzi in classifica. Avete fatto magari 27 punti, meno soltanto di Juventus e Napoli. E venerdì c'è Bologna-Juventus. E la Juve viene da 15 vittorie consecutive. È il momento giusto. Quindi è uno scontro al vertice. Esatto. Di fatto lo è, ragazzi. Sono numeri. Angelo, Roma. Buon pomeriggio a tutti quanti. Grazie di avermi convocato. Allora, io sono del tipo della Lazio. Sono contento che mi avete chiamato, perché il nostro problema... è una radio nazionale, si può far sentire più forte. Sì. Pronto? Sì, la sento. Vorrei che parlasse più, non lo so che noi veniamo dopo, però della nostra situazione che si vive a Roma col nostro gestore, perché io per lavoro giro tutta Italia e fuori Roma, fuori dal Lazio, la gente dice: ma che volete dal vostro presidente? Di Asterbato, di qua, di là, ma non sanno tutto il contorno. Se c'è Pardo, lui le cose le conosce, se vuole ci fa un grande favore, anche se è dall'altra parte del Tevere, le può spiegare meglio, perché questa è una situazione che non è più sostenibile, noi non sappiamo più cosa fare. Tanto per cominciare, non andate mai allo stadio, perché lo spettacolo dell'Olimpico quando gioca la Lazio è desolante. So che i tifosi si ritroveranno a Tor di Quinto, mi pare, in occasione della partita interna con l'Atalanta, si raduneranno maxi schermi e festeggeranno da lì. È una situazione assolutamente paradossale. E ha ragione, non è più sostenibile, ma non è più sostenibile già da un bel pezzo. Questo ostracismo totale e qualche volta cieco nei confronti di Lotito ha raggiunto ormai dei livelli che non possono più essere tollerati a lungo. Maurizio da Carrara, giusto una battuta che stiamo chiudendo, dica. Due cose velocissime, sì. Una su Medel e una su Mancini. Io sono tifoso dell'Inter, grazie, complimenti per la trasmissione. Allora, Medel, ho sentito che prima avete commentato sul fatto che la mediocrità dell'Inter sta su Medel. No. Non sono d'accordo in questo senso. Secondo me è un giocatore importantissimo, però in una squadra incompleta. Probabilmente in una squadra completa si sentirebbe parlare di lui in modo molto più importante e che secondo me merita. Per quello che riguarda Mancini, velocissimamente, per dire che secondo me in questo momento il problema è lui e la squadra, perché non ha le idee chiare, e ieri l'ha dimostrato, perché nel momento in cui hanno spostato Bernardeschi avrebbe dovuto sostituire Telles, perché al di là del fatto che non era assolutamente fallo, era già stato ammonito. Quindi il mister della Fiorentina ha spostato Bernardeschi proprio perché probabilmente sperava in quello che cercava secondo un secondo cartellino, che poi è arrivato con tutte le polemiche del caso. Io ho l'impressione che di Inter torneremo a parlare anche domani, ragazzi. Adesso chiudiamo qui. Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronati in regia, Federico Bindi in redazione. Ciao. Saluti.